care amiche di Radio Forte, siamo qui per questa 27esima puntata. Tecnicismi spaziali. Sono tropicali. L'argomento di questa puntata è un argomento scomodo, scoppiettante, rinfrescante e corroborante. Io direi anche archeo digitale, ecco, archeologia digitale facciamo. Parleremo di meme, dai buongiornissimi alla memetic warfare, alla guerra attraverso i meme. E ne parleremo oggi con due ospiti, soliti due ospiti. Abbiamo Meme Remigio che è qui con noi, ci è venuto a trovare. Ciao, ciao a tutti. Ma cosa mi dici mai? Non so di cosa parli. Poi abbiamo qui DJ Dr. Genus. Saluti, salve al pubblico. Parleremo dei meme con questi due ospiti perché sono due esperti in ambito mondiale. E Memo Remigio qui a Meme Remigi ci assomiglia a qualcun altro, ma l'abbiamo chiamato qui perché è una produzione, una startup, la solita startup, produce meme, un produttore seriale di meme di tutti i tipi. Grazie innanzitutto per avermi invitato. La mia storia viene da lontano. Diciamo che adesso sto vivendo un momento di successo digitale con la mia produzione di Meme per Tutti e quindi la mia società che si chiama Meme Lo Merito. Da qui svariati clienti internazionali usufruiscono dei nostri prodotti basati sul meme, oggi che è diventato un po' più sul versante video. E infatti io l'ho chiamato qui perché ho un problema con delle tipologie di meme che possiamo conoscere, che sono i buongiornissimi. Alla fine ho fatto una ricerca di chi produce questi buongiornissimi. Ci tengo a sottolineare che per me è il prodotto peggiore, cioè no, è il prodotto che odio fare. Infatti ho dislocato in Guatemala la produzione di meme buongiorno. Sì, perché alla fine questi buongiornissimi sono diventati un problema della nostra comunicazione digitale, vengono usati soprattutto da mia madre, da persone di una certa età che su WhatsApp, in vari gruppi, ogni giorno mandano e si ricondividono continuamente queste simpatiche immagini che sembrano innocue, ma dietro abbiamo capito che c'è dietro qualcuno che le pensa, le produce per dei motivi, degli scopi. I canoni del buongiornismo sono qualunquismo, appiattimento del reale, distaccamento da quello che è la visione d'insieme dall'uno, e quindi la separazione tra la propria vita, esatto, e quello che invece è la vita di questi angioletti a forma di gatto che morbidamente ti sorridono a contrasto con la misera esistenza che ci costringono a vivere in questi periodi in cui siamo tutti sottoposti a una ghigliottina mediatica, eh? Va bene? Grazie per avermi invitato. Dottor Genus è qui perché è un emerito professore di memetica per la propaganda Memesis. Ci vuole presentare i suoi ultimi lavori. Salve, salve, salve. Io ho cominciato così dalla televisione e poi sono passato un po' a iconografie più grandi per finire a fare l'ultimo diploma all'Istituto di Propaganda Memetica. Sui muri abbiamo visto pure le proiezioni di immagini e poi abbiamo scoperto che erano dei film. E studiando i film siamo arrivati alla cineconografia, che è lo studio del cimena che assona al meme, cimema meme. E così in questo laboratorio di studio di linguaggio delle immagini in movimento e anche fisse è uscita questa fantastica idea di fare una serie Memetrix. In realtà non è che si distingue dalle altre memi che si trovano in giro, se no non sarebbero memi, non sarebbero simili agli altri. Sono immagini casuali, non se ne rende conto nessuno, è solo un'ondata di download sulle prime pagine di tutti i social, di tutte le chat, di buongiornismi e quant'altro, politica, violenza, sesso. Insistent upon giving out to them that blackness, that black power, that black pushing them to identify with black culture. I think that's what you're asking. I have no choice over it in the first place. To me, we are the most beautiful creatures in the whole world, black people. I mean, and I mean that in every sense. Outside and inside, and to me we have a culture that is surpassed by no other civilization, but we don't know anything about it. So again, I think I've said this before in the same interview, I think at some time before, my job is to somehow make them curious enough, persuade them by hook or crook to get more aware of themselves and where they came from and what they are into and what is already there, and just to bring it out. This is what compels me to compel them. Io come coproduttore della serie Memetrix, ispirata alla grande serie dei fratelli Wachowski, abbiamo voluto appunto parlare e approfondire il discorso di quella che è la semiotica dell'internet, ma i principi della memiotica, che è ancora prima della memetica, eh? Quindi cosa significa una immagine ripetuta, tipo la sacra sindone, diciamo, o anche il crocifisso. Il crocifisso, esatto. Forse dobbiamo dare delle definizioni a questo punto di meme, che cos'è un meme, perché ne stiamo parlando. Sì, io ho fatto preparare dalla mia segretaria personale un piccolo contributo in cui spiega l'antropologia del meme. Un meme di internet è un pezzo di cultura, in genere uno scherzo, e che però acquista influenza attraverso la trasmissione online. Ma per sintetizzare, voi ricordatevi questo: il meme, per essere meme, deve avere quattro caratteristiche: attualità, viralità, ironia e modificabilità. Cioè, ognuno se lo farà come vuole. I meme, quindi, come abbiamo capito, sono degli oggetti, sono delle idee replicabili, delle idee che vanno da mente a mente, che si replicano come un virus e che diventano virali, vengono modificate e rese sempre attuali. Sono gli elementi della cultura contemporanea. Lo studio di questi elementi si chiama memetiche. Ma parliamo anche oggi degli aspetti, diciamo, negativi che ci sono dietro questa produzione di meme. Aspetti negativi, mi sento di spezzare, diciamo, una katana sulla schiena della Fregnagni a Sanremo 2023, e il meme serve per colpire duramente a livello sociale un individuo scomodo, a te scomodo, un nemico che io con pochi soldi ti posso distruggere. Siamo venuti in possesso di documenti scottanti. Abbiamo capito che anche militari utilizzano i meme come arma per la guerra digitale, la guerra su internet, la cyber war, la memetic war. Sì, appunto, per oggi, solo per oggi, ma fino a domani, uno sconto a tutti i militari, servizio per la nostra azienda, me lo merito. Noi non siamo d'accordo, comunque siamo venuti in possesso di questi documenti e ci raccontano che addirittura abbiamo la possibilità di creare delle persone noti come memeoidi, che sono persone sottoposte a un lavaggio del cervello attraverso un'esposizione continua di meme di vario tipo, fino quasi a riprogrammare il cervello, perché sono sempre delle idee rappresentate da un'immagine, una frase, e ci sono persone sensibili. E il nostro amico ospite ne sa bene qualcosa. Infatti le persone sensibili sono il nostro target preferito. Abbatti il sensibile è uno dei motti all'interno dei nostri co-working. Abbatti il sensibile. Questi memeoidi sono persone la cui esistenza diventa condizionata dalla diffusione di questi meme, un continuo sui social, e stanno lì sempre a ricondividere continuamente delle idee in base a dei macro contenuti che possono essere la guerra, i vaccini, l'Islam. Quest'anno va tantissimo il body shaming e il razzismo, un anno di destra, e va anche tantissimo andava Greta, ecco, esatto, un nuovo governo, i meme razzisti sono risaliti di quota, anzi si possono pure riutilizzare quelli vecchi, vanno sempre bene. Sì, noi sui riuso di meme vecchi sul razzismo quest'anno ci abbiamo una scontistica speciale. Questo set di meme si chiama Memeplex, sono quindi questi complessi di meme che parlano tutti di uno stesso macro tema, e quindi poi ci sono aziende come quella di Memo Remigio che lucrano su questa diffusione di meme e di idee, ma queste idee dipende da chi sono veicolate, da dove vengono. Noi sempre andiamo a cercare la fonte. Noi non è che andiamo a lucrare lì dove c'è una domanda, noi andiamo ad offrire un servizio. Per quanto riguarda me, io sono stato il primo ad essere scottato e a pagare lo scotto di essere un memerito, come li chiami tu, quelli che sono soggetti al memeoide. Sono il primo memeoide della storia italiana, in quanto io sono stato cacciato da un'emittente televisiva abbastanza famosa, dove sono stato incolpato di molestie, anche se sanno tutti che la mia storia appunto con... forse mi ricorderete per Topo Gigio. Qualcuno affermava che appunto io molestassi dopo Gigio, e dopo anni appunto è ritornata questa storia della molestia. Poi sono stato anche assolto per diciamo incongruità di testimoni, cioè i testimoni in realtà, vabbè, insomma, una storia un po' come che ricalca la storia italiana attuale di questi giorni. Ma cosa mi dici mai? Però sono stato bombardato come memeoide di offese su internet che mi hanno distrutto la carriera e la vita. E io che cosa ho fatto a questo punto? Io, sperando di placare quest'ira dell'internet, ho fatto un meme a mia volta su di me, ma straviolenta. Ho detto: questa cosa creerà stupore e la gente dirà è troppo, e si fermano. Mi sono augurato di appunto di essere virato sull'internet, ma la gente invece di fermarsi, che cosa hanno fatto? Me lo ricordo, ho partecipato pure io, purtroppo, mi scuso pubblicamente. Certo, scusatemi adesso. Che cosa è successo? Invece di stoppare la violenza, questa cosa ha generato ancora più violenza, ma questa ipervisibilità di questo meme da me creato mi ha fatto arricchire, e adesso io sto sfruttando appunto quella cosa negativa per me, ma è anche per vendicarmi, diciamolo, perché la vendetta, la vendetta. De todo dia tá o sol de tudo. Attraverso la lente dei meme possiamo seguire l'evoluzione di internet. Dal 2010, per esempio, YouTube e 4chan erano le fonti dominanti, poi siamo passati Reddit, Tumblr, Vine, Twitter, fino ad arrivare a TikTok, che prende oggi il 45% del mercato di produzione mondiale di meme. bonus. Quindi qua abbiamo capito che c'è un'evoluzione dei meme da immagine fissa con immagine a video, con immagini ricondivisi anche però con la musica, con gli effetti, insomma una bella evoluzione che è arrivato quasi quasi a quanto pare fino al cinema, alla serie che state realizzando. Poi appunto dal 2010 la mia carriera cinematografica è stato un declino. Adesso ho capito che dovevamo investire proprio sui meme che hanno invaso il mercato dell'audiovisivo su praticamente tutte le piattaforme. Nessuno va più al cinema, nessuno interessano i film, l'attenzione è molto breve e poi possono catturare non più di 5 minuti. Per questo la serie è diventata una successione di meme e siccome siamo dovuti stare alla precensura, per cui non possiamo utilizzare tutte le immagini che vorremmo e neanche tutte le parole che vorremmo, dobbiamo fare dei meme che risultano uguali agli altri. Oggi il video meme, quindi il tiktokismo dilagante, ci costringe ad usare dei sotterfugi per riuscire a scappare dalla precensura. Infatti su questo appunto, come eludere la precensura, abbiamo fatto anche un webinar che soltanto per questo mese dovrete scontare. Non si possono vendere cose qui in trasmissione. Ecco, noi abbiamo affrontato questa serie bellissima, fantastica, che vi terrà tutti incollati al vostro terminale. Abbiamo sottolineato questa evoluzione linguistica, cioè dall'immagine fissa, che è un po' come dalla fotografia e il cinema. Ecco, il meme si è evoluto ed è diventato un meme video in cui la ridondanza del contenuto può essere legata non soltanto all'immagine ma anche al suono e o viceversa. Cioè questa moltiplicazione della ripetizione che comunque serve soltanto ad appiattire il nostro metro di giudizio. Trovare a sorpresa un nuovo ospite, DJ Lip, è un esperto di memologia applicata. Ciao Lip. Ciao, guarda, mi ritrovavo appunto nel futuro, ascoltavo la trasmissione e mi è venuto in mente che bisognava comunque ritornare nel passato. Nascono con il digitale, no? Quindi fornire nuovo senso a delle immagini o a dei contesti di comunicazione è sempre stata una cosa che ci ha incuriosito. Mi viene in mente anche in tempi non antichissimi l'arte di disegnare chip sui modelli delle pubblicità o il baffetto hitleriano. Anche dette minchie. un baffetto hitleriano messo lì a deturnare, o delle frasi fatte pronunciare per esempio a Berlusconi quando il suo volto campeggiava nelle nostre città. Quindi la cornice riproducibile era fornita magari da chi pensava di fare una campagna pubblicitaria, e il messaggio deturnante era lasciato alla creatività delle moltitudini. Grazie al nostro ospite. L'ultima domanda, così a freddo: qual è il meme che ti ha colpito di più nella vita? Nella vita, diciamo, ce ne sono tanti, ma quello che più ultimamente mi incuriosisce è il meme Rolls Worst Joint Ever, dove al protagonista di una sventura, dopo aver fatto la peggiore delle canne possibili, capitano delle disavventure incredibili. Si può applicare a Joe Biden, che fa saltare il Nord Stream dopo aver rollato la peggiore canna del mondo. Un gasdotto di cui nessuno sa niente. Un'idea, un concetto più ampio è diffonderlo ed essere totalmente d'accordo. Bisogna essere pro o contro un meme. Del meme è dovuto proprio a questo sovvertimento, grazie, questo ribaltamento del reale e questa idiosincrasia tra quella che è la nostra lettura del reale e invece una meta interpretazione di questo iperrealismo. Hai detto meta. E ci tengo a dire che con questo noi possiamo dire tutto e anche il contrario di tutto, che è proprio il tema della nostra serie di cui ci parlerà, proprio la forza del meme e dove tu puoi aggiungere la tua lettura del reale su un'immagine che noi consideriamo oggettiva o su un video che noi consideriamo oggettivo, un audio che noi consideriamo oggettivo, mentre con la nostra chiave di interpretazione noi ribaltiamo o quantomeno spostiamo il punto di vista. Proprio questo che affascina le nuove generazioni che hanno bisogno di nuovi punti di vista e che comunque sono rassicurati dalla molteplicità e quindi dalla ridondanza di questa immagine, quindi si sentono facenti parte di un gruppo e quindi condividono un'immagine, un suono, un'esperienza, ma sottolineando il loro punto di vista e a volte stravolgendone appunto e ribaltandone il significato. Questo, quindi le persone lo fanno senza rendersi conto molto del perché lo fanno, ma perché sono dentro un sistema che gli dice che devi per forza ricondividere delle cose. Appunto una vittima dei primi meme, come ho detto, dove fanno vedere chiaramente una foto contraffatta di una mia, diciamo, palpata a una soubrette. Beh, io ho subito. Abbiamo fatto fact checking, la foto non era contraffatta, però vabbè. E comunque appunto il meme si basa proprio sull'impulso, sull'impulsività, quindi una reazione emotiva a qualcosa che tu stai vedendo, anche se non è vera, come nel mio caso, mi stavo sgranchendo perché ho una certa età, l'artrosi sta cominciando a mangiarmi dall'interno, e anche tutto quello che è stato detto sul Topo Gigio, quello che ho fatto a quella mano, non è vero, ci tengo a dirvi che fidatevi di me, perché me Remigi, meme, mi meme, io me. Che ci fa la moltiplicazione della realtà, che ci fa appunto assumere questa realtà come vera, in realtà non è nient'altro che quello che ci faceva vedere il grande Stanley Kubrick in Arancia Meccanica, cioè la sovraesposizione di immagini fa sì che si consolidi e si radichi in te la convinzione che quella sia la realtà, se non mi sbaglio, dottor Genus. Abbiamo usato i buongiornismi proprio per questo, dando un'ondata di prima di piacere dei gattini, di tanti gattini deliziosi e sinceramente teneri, fino a sfinire tutte le chat, che adesso il buongiornismo è diventato una molestia. Sì, noi infatti offriamo un servizio di riflessologia iridale del gattino, dove noi proiettiamo, diciamo, simboli terrificanti. Chi le legge il buongiornissimo felice, roseo e arcobalenato, in realtà sta percependo, il suo cervello percepisce anche la riflessione all'interno dell'iride del gattino, dell'angioletto, del bambinino, di qualcosa che lo atterrisce. E abbiamo scoperto che questo provoca a chi vede, chi è bombardato da queste immagini subliminali, dei momenti di piacere e di spasmi a livello sessuale. E anche ovvio. With my phone on silent, hear no, see no, felt the violence. God got my blessings on autopilot. Why ain't no one tell me peace of mind was pricey? I could dance with the devil, but that's unlikely. Might go broke, but that's unlike me. I was born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle inside me. Feeding my soul, I go make nothing something. Show you my love, I don't fear nothing, nothing. But all it for show. Now watch me go show you something. Feeding my soul, I go make nothing something. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. That's my spirit, just not today. I got demons on my back and a lot on my plate. Someone tell them back, back, I got something to say. First they love you, then they hate you, then it's part of the game. They cannot, I ain't nothing to play with. All my niggas off the block, all my niggas off slave ships. You can test my spirit, but don't test my patience. I only fear God and you can meet thy maker. I've been feeding my soul, I go make nothing something. Show you my love, I don't fear nothing, nothing. But all you for sure. Now watch me go show you something. All you for sure. Watch me go home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud with a hustle inside me. Home from the mud. You don't need to pose and posture when you were born in the struggle. I know a niggas with a needle that could burst all your bubble. These peace signs are just a piece of the puzzle. Spit to the muzzle, silence the lambs, kiss and they cuddle, forget that they cut you. It's just part of the hustle. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Born from the mud with a hustle inside me. Abbiamo trovato dei manuali di Al-Qaeda in cui dicono che praticamente per i nuovi adepti, per i nuovi, quelli che volevano entrare a far parte di Al-Qaeda, li sottoponevano per mesi o per un anno o più a solo un determinato numero di meme ridotti, e quindi facevano praticamente il lavaggio del cervello. Per cui a quanto pare hanno studiato che se una persona, non tutti, però ci possesse queste persone che diventano poi dipendenti da quel tipo, quel set di meme, di questi meme complex, e quindi poi li puoi riprogrammare, li puoi far fare qualsiasi cosa all'interno di quello schema, diciamo, di pensiero. Da parte statunitense, veniamo a sapere che prima di un conflitto militare utilizzano i meme di guerra che devono raggiungere una certa massa critica all'interno della popolazione ospite, così da sostenere le azioni aggressive successive da parte dei militari. Hanno studiato che il cervello umano, nonostante la sua grande capacità, può contenere solo un numero limitato di meme, e questo costituisce la base della selezione memetica. Ci sono un paio di account su 4chan, credo che siano collegati a voi. Beh sì, sono nostri clienti, sì. Sì, e che diffondono tantissimo una propaganda di destra americana legata a Trump, in cui c'è la rana Pepe come meme principale, per cui no, c'è una rana simpatica, amica del popolo, e che dà dei messaggi antigovernativi, c'è il deep state, ci sono i cattivi che vogliono, che hanno in mano il congresso, e Trump è quello, il salvatore, che è quello diverso. Cioè, ho visto che anche voi siete dentro questo mondo qui, che dall'Italia agli Stati Uniti, insomma, ci sono varie analogie. Interessanti che qualcuno ha saputo cogliere, appunto, col governo di destra italiano, che in questo momento ha voluto sovvenzionarci con una nuova startup, appunto, che viene dal progetto Zero, fatto per 4chan, questo progetto che nacque un po' per scherzo, un po' così in maniera goliardica e un po' come esperimento. Abbiamo avuto un grande successo e ci siamo resi conto di come poi alla fine il nostro modo di comunicare fosse più incisivo, e di come alcune tecniche che il nostro amico Genus ci ha saputo consigliare ha portato poi a quello che è stato l'evento più rappresentativo di questi anni per quello che riguarda la politica internazionale, che è stato l'assalto a Capitol Hill, appunto, dove sono anche dei nostri personaggi totalmente inventati da noi, tipo Torone Peloso, non so se lo ricordate. sul parallelismo, il famoso parallelismo dell'assalto poi in Brasile, dove noi abbiamo partecipato, abbiamo fatto in maniera del tutto volontaria, senza scopo di lucro. C'è proprio una sezione nostra, scontatissima tra l'altro, dedicata alla politica, è rivolta esclusivamente alla politica internazionale e sul cambiamento, appunto, il brainwashing delle masse per portarle a votare chi paga di più. Grazie per averci dato questo spazio e viva! Ma cosa mi dici mai? Dici mai? Sì, durante la presidenza Trump abbiamo assistito alla memeficazione della politica. Canzone per voi, un bicchiere, due risate con noi, nella casa in via del campo dove dolce andava il tempo, dove ho riso amato e tante volte pianto, si scaldavano le ore, quel che volta in fondo al cuore rimaneva un'ombra triste di rimpianto, nostalgia di non poter guardare il sole nella casa in via del campo. Han riaperto le finestre quel dì, le risate son volate lontano, una ditta di trasporti per coloro che son morte, con le insegne bianche io ora al terzo piano, dove il sole tenda fiori delle lampe di colore, i capelli di Maria, le sue mani, si direva ormai finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Una notte son tornata però, mi pareva di sentire come allora, quelle voci a rider forte, un dischiudersi di porte, quattro note di chitarra, cose morte, ho cercato a lungo il vano, quella luce al terzo piano, quella donna che sapeva anche amare, ve l'ho detto ormai finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Non ho pianto i miei vent'anni poi, tante volte abbiamo pianto anche noi, ma potevano lasciare tutto quanto riposare, ora che non si potrà mai più cantare, io l'ho detto a Maria, vieni a bere vecchia mia, un bicchiere per poter dimenticare, tanto vede è finito tutto quanto, nella casa in via del campo. Tanto vede è finito tutto quanto nella casa in via del campo. Capito che i meme stanno minando la democrazia perché riescono addirittura a influire sulle elezioni. Società, startup innovative come quella di Memore Migio, alla fine. Guarda, adesso mi sono appena ispirato per un nuovo claim per le prossime elezioni italiane, e appunto sulla base di un pezzo di CCCP. E se fa così, fa un'elezione triste, con una sinistra modesta, tu sei un po' di destra. Ci dobbiamo lavorare, però è interessante, grazie. Nascono così le nuove idee per ma... il nuovo trend che troverete tutti quanti nell'OnlyFans di Giorgia Meloni. Avete usato come copertina il mio secondo meme preferito. Il mio primo meme preferito è quello della bambina che guarda Sorniona mentre la casa brucia. E il mio terzo preferito è il classicone di Willy Wonka. E il vostro? Qual è il vostro meme preferito? Let's go. friend from long, long, long time. Let I go. Let I go. Let I go. Let I go. He let go, he let go, he let go, he let go, he let go, he let go, he let go, he let go. It was a cutlass. Questa puntata abbiamo capito tante cose, dobbiamo essere vigili quando guardiamo queste innocue immagini sul web, sui social, perché non sono esattamente così innocue, non sono neutre. E Dr. Vegas ci vuole dire un'ultima cosa prima di chiudere. Ci vediamo per la prossima puntata. Non possiamo fare altro che conoscere il nostro nemico, quindi quando siamo troppo davanti al nostro telefono pensate a come stanno programmando il vostro tempo e stanno consumando energia elettrica dall'altra parte del mondo. Il mio pensiero è: fuggite dal meme prima che il meme si impossessi della vostra realtà. Quindi siate sempre il meme di voi stessi. Grazie a tutte e tutti, grazie a Radio Forte, ci vediamo per la prossima puntata di marzo, sarà la 28esima, e buon ascolto per le altre trasmissioni. Ciao! È un'elezione triste. Coito molesto per cioè sei anti-Asia allora. Eclettismi spaziali sono tropicali.